Mezzanotte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Dunque, io devo dire, l'ho ascoltata, per me, come per tutti noi, è la prima esperienza in politica e mi sembrava un po' di stare a sentire una puntata di Ballarò, francamente. E dico che mi sembrava di sentire una puntata di Ballarò perché io ho 39 anni, sono 20 anni che voto e sono 20 anni che sento parlare delle stesse cose personalmente. Avete già sentito questo audio, era anche un video in realtà, perché era lo streaming, l'incontro in streaming, vi ricordate, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, qualcuno se lo ricorderà, tra il Movimento 5 Stelle e l'allora candidato presidente del Consiglio Bersani. Si erano incontrati, diciamo che Bersani è stato preso un po' a pesci in faccia, insomma era finita come era finita, poi c'era stato il governo Letta. Questo perché naturalmente stasera torneremo a parlare di politica, ne stiamo parlando molto in questi giorni anche a Effetto Notte e abbiamo avuto vari esponenti dei partiti politici. Questa sera ne parleremo di nuovo con un parlamentare del Movimento 5 Stelle, che è Roberto Fico, che dovremo raggiungere tra poco, perché pare che su Bersani forse possano aver cambiato idea, poi lo scopriremo, quindi non mollate per nessuna ragione Effetto Notte. Vi ricordo che avete sempre due canali privilegiati per essere interattivi con la trasmissione in diretta fino alle 22, siamo insieme come sempre. C'è il numero per gli sms che è il 349-238-6666, lo ripeto, 349-238-6666, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, dove vi ho già scritto la rosa dei 10 candidati del Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle ha deciso, dopo che Renzi non fa dei nomi, di proporne di suoi alla rete. Voteranno domani gli iscritti al Movimento 5 Stelle, però voi potete anche stasera esprimere le vostre opinioni su qualcuno di questi candidati che trovate sulla pagina Facebook di Effetto Notte, se ritenete che votereste uno di loro. Poi parleremo anche di altri argomenti, naturalmente parleremo di una legge che è già stata denominata anti-moschee, che ha approvato la Regione Lombardia. Parleremo anche di calcio, parleremo poi di molti altri, parleremo della Grecia, del governo che si è appena riunito nel Consiglio dei Ministri, insomma un sacco di cose come al solito in Effetto Notte. Però rito iniziale, raccontarvi in sintesi la giornata. La corsa verso il Quirinale dopo l'incontro con Renzi, Berlusconi dice che il nome ancora non c'è, i 5 Stelle intanto presentano la rosa di candidati. Grecia, Tsipras apre l'Unione Europea ma blocca le privatizzazioni, non vado alla rottura sul debito, Berlino intanto ripete il no al taglio del debito. ISIS, la Giordania smentisce il rilascio della terrorista irachena, è giallo sullo scambio dei prigionieri. Emilia, operazione contro l'andrangheta, anche qui si rideva per il terremoto, oltre 150 gli arresti. Omicidio Musii, ergastolo a Furchi, lui grida che è un'ingiustizia. Unioni civili, a Roma via libera, registro delle unioni, resta festa in Campidoglio, esulta Marino, critiche da parte delle opposizioni. E per il calcio ancora Coppa Italia, questa sera in campo Juventus-Parma. Naturalmente, se va a sentirsi, inizia dalla politica italiana, che ha come protagonista assoluta, continua a avere naturalmente, la scelta del nome per il Quirinale e il relativo fermento in casa PD, in Forza Italia e nel Movimento 5 Stelle. Alla fine è lo stesso Silvio Berlusconi ad ammettere che il candidato ancora non c'è. L'incontro di due ore a Palazzo Chigi non scioglie il nodo sul Quirinale. Il premier Matteo Renzi ribadisce che non vuole veti. Il Cavaliere continua a porli, prima su Romano Prodi, adesso su Sergio Mattarella. Così il vice segretario Lorenzo Guerini. Non ci sono diktat e non ci sono veti, perché il metodo che bisogna seguire in un passaggio come questo è quello di costruire convergenze ampie, e queste convergenze non si possono fare se ciascuno di noi mette veti. Il premier volge lo sguardo anche all'interno del Partito Democratico. In mattinata l'incontro con Pierluigi Bersani, l'ex segretario Dem dice che è andato molto bene, hanno parlato di nomi ma la strada è ancora lunga e oggi Renzi si prende più tempo, conferma scheda bianca ai primi tre scrutini. Berlusconi continua a fare pressing su Giuliano Amato, ben visto anche dalla minoranza Dem, ma Renzi teme che il professor Sottile possa essere a rischio imboscate. Nel frattempo incontra Pier Ferdinando Casini, mentre Matteo Salvini, Lega, e Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, candidano il giornalista Vittorio Feltri. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. 10 nomi, tra cui una sola donna e molti tra giuristi e magistrati di primo ordine: Raffaele Cantone, Lorenza Carlassare, Nino Di Matteo, Ferdinando Imposimato, Elio Lannutti, Paolo Maddalena, Salvatore Settis e Gustavo Zagrebleschi. Ma sono soprattutto due quelli che spiccano: Romano Prodi e Pierluigi Bersani. Nella rosa che il Movimento 5 Stelle sottoporrà domani al giudizio della rete entrano dunque due nomi interni al PD, due nomi che rischiano di mettere in difficoltà Renzi o, come ha detto Di Battista, di spaccare il suo partito. Domani dalle 9 alle 14 su questi nomi si esprimerà la rete. Da lì uscirà il candidato alla presidenza della Repubblica del Movimento 5 Stelle sin dal primo scrutinio, mentre per gli eventuali successivi Luigi Di Maio spiega quale sarà la strategia. Al quarto scrutinio, se ci dovessero essere dei presupposti per riuscire a modificare gli equilibri di maggioranza in Parlamento, faremo anche una votazione lampo sul blog per chiedere se i nostri iscritti sono d'accordo con un cambio di rotta che può sicuramente portare un vero garante al Quirinale. E intanto già c'è chi si sfila dalla corsa. Lorenza Carlassare, giurista e costituzionalista, dice: non farò mai presidente, serve qualcuno con esperienza politica. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Torneremo ovviamente, dicevo, a parlarne. Intanto spostiamoci sulla pagina economica. Per l'economia italiana il 2015 si sta sempre più annunciando come l'anno spartiacque, così dice il Centro Studi di Confindustria. Notizie positive da Viale dell'Astronomia. Il rapporto congiuntura flash del Centro Studi Confindustria prevede infatti un ritorno alla crescita economica a partire dal primo trimestre del 2015. La previsione positiva è basata sull'azione di fattori esterni quali il crollo del prezzo del petrolio, la svalutazione del cambio dell'euro, la diminuzione dei tassi di interesse a lungo termine e l'accelerazione del commercio mondiale. Sommando i loro effetti si arriva a una spinta per l'Italia pari al 2,1% del PIL nel 2015 e al 2,5% nel 2016. Tra i fattori di crescita interni vi è anche l'Expo. Il quadro internazionale è propizio per l'avvio della ripresa e ciò comporterebbe uno stop alla lunga e profonda recessione iniziata nel 2008, almeno in teoria. Grossa importanza avranno anche le politiche orientate alla crescita, che daranno maggiore sostegno all'occupazione e agli investimenti. Enza Lodo, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora la Grecia. Oggi la Commissione europea ha espresso la sua posizione nei confronti della Grecia all'unanimità. Ci aspettiamo il rispetto di quanto è stato promesso, ha detto il vicepresidente Katainen. Questa mattina ad Atene intanto Tsipras, il neo primo ministro, ha presieduto il suo primo consiglio dei ministri. Il nuovo governo di Alexis Tsipras ha congelato a sorpresa le privatizzazioni che la Troika aveva concordato con il precedente esecutivo. La società dell'energia elettrica, l'agenzia del porto del Pireo, la maggiore raffineria del paese, la Hellenic Petroleum, tutte queste società resteranno pubbliche e non saranno più messe sul mercato. Immediatamente la borsa ha reagito pesantemente con un meno 9%. Domani intanto arriva ad Atene il presidente dell'Eurogruppo, John Dijsselbloem, per un primo contratto tra l'Unione Europea e il nuovo esecutivo. Al di là delle frasi di circostanza, sarà un negoziato duro e senza esclusione di colpi. Il governo Tsipras ha promesso di attenuare le misure di austerità per un costo di 11 miliardi di euro, somma che deve arrivare da una riduzione del costo del debito con i creditori. Meno soldi Tsipras restituirà alla Troica, più finanziamenti arriveranno nelle tasche dei greci. Vittorio Darol, Radio 24, Sole 24 Ore, Atene. E restiamo all'estero. Madrid esige un'inchiesta immediata, esaustiva e completa affidata all'ONU sulla morte del militare spagnolo dei caschi blu ucciso in Libano dal fuoco israeliano. Tra i caschi blu schierati nel paese dei cedri ci sono anche 1200 italiani. Sentiamo l'analisi di Ugo Tramballi. Due soldati israeliani uccisi e 7 feriti, vittime di un bombardamento Hezbollah che probabilmente voleva essere la risposta a un altro bombardamento israeliano della settimana scorsa. In mezzo un soldato spagnolo inquadrato nei caschi blu delle Nazioni Unite ucciso per sbaglio dagli israeliani. Ma la faida questa volta potrebbe trasformarsi di nuovo in guerra aperta. Quel conflitto che israeliani e milizia sciita libanese avevano interrotto nel 2006 solo con un tenue cessate il fuoco. A dividere fino ad ora i due nemici lungo la frontiera del Libano meridionale ci sono circa 13.000 caschi blu, di questi 1.200 soldati sono italiani. L'intera forza è comandata da un italiano, il generale Luciano Portolano. Siamo dunque nel mezzo di un nuovo potenziale conflitto medio orientale. Una nuova guerra nel sud del Libano spingerebbe Israele dentro quella in corso in Siria ed Hezbollah è già pesantemente impegnato a proteggere il regime di Damasco per desiderare di aprire un nuovo fronte. Ma gli animi sono surriscaldati e l'ostilità profonda. E ora parliamo di ISIS, di uno scambio non chiaro tra prigionieri. La Giordania è pronta a scambiare una donna irachena che si trova nel braccio della morte di un suo carcere per il suo ruolo in un attacco suicida nel 2005 in cambio della liberazione di un pilota giordano in mano ai jihadisti dell'ISIS. E si parlava anche dell'ostaggio giapponese, uno dei due sopravvissuti in mano all'ISIS perché l'altro è stato decapitato. Ma il portavoce del governo, Mohammed al-Momani, non ha menzionato l'ostaggio giapponese, reporter di guerra, anche egli prigioniero dell'ISIS, e ancora non si sa, si dava per già fatto questo scambio in giornata, invece pare che ci siano voci dismentite, insomma non è ancora chiaro. Torniamo intanto sulle notizie italiane con la cronaca. Una maxi operazione anti-andrangheta dalla Calabria all'Emilia Romagna è stata portata avanti dall'antimafia di Bologna, che ha arrestato 117 persone, ma anche dall'antimafia di Catanzaro e Brescia, col fermo di altre 46. Un'indagine dei contorni ancora da definire del tutto e che raggiunge anche la politica. Indagato pure il sindaco di Mantova, l'ex presidente del Consiglio Comunale di Parma. Molti gli elementi emersi dalle migliaia di carte dell'inchiesta. Ci sono i grandi appalti, quelli del post terremoto. Ci sono gli scambi di voti e favori con amministratori di Forza Italia. Ci sono le talpe anche tra le divise e le pressioni su un giudice di Cassazione. Ma ci sono pure i giornalisti che si mettono a disposizione per interviste, quelli che fanno da tramite col Vaticano per un trasferimento di carcere e quelli, una cronista del Resto del Carlino, minacciati invano. Benvenuti ancora una volta nei feudi di 'Ndrangheta, benvenuti stavolta anche in Emilia, dove il clan Grandi Arachi spadroneggia da almeno 30 anni, ma ora si è fatto imprenditore. La spazzatura lo decidiamo noi chi la deve prendere, sentenziano al telefono i boss, e questo vale per i rifiuti di Cutro nel crotonese, come per le macerie del sisma nel modenese. Appalti ottenuti grazie al responsabile dei lavori pubblici di Finale Emilia e a imprenditori come il padre del calciatore Iaquinta o Bianchini, la cui società era stata esclusa dalle white list, tanto che al procuratore di Bologna tocca dire che si doveva fare di più. È a Reggio Emilia, scrive il GIP, l'epicentro di questa associazione autonoma nell'intimidire, ma che, come ogni provincia di 'Ndrangheta, riceve ordini dalla Calabria, il più delle volte si definiscono a cena, come quella a cui partecipò Pagliani, consigliere reggiano di Forza Italia, in cui si sancì l'accordo tra politica e cosche. Sono almeno quattro le elezioni emiliane che la 'Ndrangheta ha provato ad inquinare, proprio come fa nella punta dello stivale, da cui riesce a raggiungere la Cassazione e il Vaticano. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore. Questa inchiesta segna una svolta, dice il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti. Risultato storico, senza precedenti. Io non ricordo, diciamo, a memoria un intervento di questo tipo contro un'organizzazione criminale forte, monolitica, profondamente radicata nel territorio emiliano. E oggi è arrivata la sentenza sull'omicidio del consigliere comunale Alberto Musì. Dai giudici è arrivata la massima pena per Francesco Furchi, responsabile dell'omicidio. Condanna all'ergastolo per Francesco Furchi, accusato dell'omicidio del consigliere comunale torinese dell'UDC Alberto Musì. Nel primo pomeriggio è arrivata la sentenza della Corte di Assise di Torino. Musì venne ferito a colpi di pistola il 21 marzo del 2012 nell'androne di casa, nel centro storico di Torino, e morì dopo un anno e mezzo senza mai riprendere conoscenza. Sono innocente, è un'ingiustizia, con queste parole Furchi ha commentato la sentenza prima di lasciare l'aula. Un verdetto che mi aspettavo, dice la moglie del consigliere. Si è capito dal lavoro degli inquirenti che c'erano le basi per una condanna. Finalmente so cosa dire alle mie bambine quando torno a casa, ha aggiunto. Nel dispositivo della sentenza i giudici hanno riconosciuto alla vedova di Musì e alle sue quattro bambine una provvisionale pari a 1 milione di euro. Avvocato, docente universitario, Musì si era candidato alla poltrona di sindaco, poi era diventato capogruppo a Palazzo di Città. Le indagini degli inquirenti si concentrarono subito sull'uomo con in testa il casco integrale ripreso da alcune telecamere. Furchi si è sempre proclamato innocente. Filomena Greco, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Torino. Ancora cronaca: i carabinieri hanno fermato un uomo per l'omicidio di Martino Ferro e Graziella Campiello, i due anziani coniugi uccisi ieri nella loro villetta a Venegono Inferiore, nel Varesotto. Da quanto si apprende si tratterebbe di un vicino di casa delle vittime, non del figlio. E poi una terribile storia a Pavia: è morta la donna segregata in casa dal convivente sessantenne, ridotta a uno scheletro, pesava meno di 15 kg. Laura Carla Lodola, 55 anni, era arrivata in ospedale lunedì in coma. Era uno scheletro ormai, il volto un teschio, capelli lunghi, sporchi, piaghe e ferite purulente su tutto il corpo. I medici hanno detto: mai visto una cosa del genere nella nostra carriera. E così anche gli agenti che l'hanno trovata, ma saranno le indagini a chiarire la vicenda. Unioni civili: Roma dice sì al registro delle unioni, l'ok definitivo è arrivato oggi con l'approvazione della delibera in assemblea capitolina. Per il Campidoglio, come recita il provvedimento, l'unione civile non è altro che rapporto di reciproca assistenza morale e materiale tra due persone maggiorenne dello stesso sesso. sesso o di diverso sesso che non siano legate tra loro da vincoli giuridici. E ora vincoliamoci a Dario Ricci con la Coppa Italia Juventus-Parma. Dario, come è iniziata? Direi, insomma, non suggerisco di allacciare le cinture per gestire le emozioni, perché siamo alla mezz'ora del primo tempo, risultato ancora 0-0, uno scialbo 0-0, Juventus nettamente favorita che fa ampio ricorso al turnover, ma finora un Parma che è stato recentemente abbandonato dalla sua stella Antonio Cassano ci sta mettendo in campo l'orgoglio, la giusta attenzione, riesce a inchiodare i campioni d'Italia sullo 0-0. Più interessante, Roberta, invece il capitolo mercato, la trattativa calda è quella del Milan con il romanista Mattia Destro. Per domani è atteso il sì del centravanti giallorosso a meno di colpi di scena mai da escludere quando si parla di calciomercato. Così dice Dario Ricci. Bene, ci aggiorniamo poi sul risultato, come procede Juventus-Parma. Adesso vi aggiorno brevemente, perché abbiamo poco tempo, su alcuni dei vostri messaggi che sono arrivati. I 5 Stelle hanno avuto un'opportunità unica con Bersani, dice Maurizio da Roma, hanno preferito giocare invece di fare politica, il treno ormai è passato. Poi qualcuno che dice, non si firma, ma Berlusconi vuole D'Alema. Vado sulla pagina Facebook di Effettonote, dove vi firmate più facilmente. E a proposito dei candidati del Movimento 5 Stelle, Paolo dice: non ne voterei nessuno. Alberto: il nuovo presidente dovrebbe essere un tenace garante dei vessati contribuenti, tra quelli citati non mi pare di vedere nessuno. Giuseppe dice: Di Matteo. Luca: voterei Imposimato e Carla Sarre, ma in un'altra vita, in un'altra Italia. Santo dice: Imposimato. Perla: ideologicamente Imposimato, ma non ce la farebbe passare mai, è stato un giudice, con lui certe porcate non passerebbero, allora accontentiamoci di Bersani o di Prodi. Questi per il momento, poi ci sono molti altri vostri messaggi, sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte, sia al 349-238-6666, dobbiamo assolutamente aggiornare chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco Roberto Fico del Movimento 5 Stelle, ma intanto vi ricordo quali sono le notizie principali se aveste acceso in questo momento, anziché alle 21, vi ricordo, sempre puntuali con Effetto Notte. Quirinale: pressing di Renzi per Mattarella, ma Berlusconi frena. Domani ci sarà un nuovo incontro. Il Cavaliere dice: a nessuno conviene saltare l'accordo del Nazareno. Grecia: Tsipras apre l'Unione Europea ma blocca le privatizzazioni. La spunta l'ISIS, la kamikaze libera, liberata dalla Giordania in cambio degli ostaggi. Al Jazeera dice: sono salvi il pilota giordano e il reporter giapponese che sarebbero stati scambiati con questa kamikaze. Confindustria vede la svolta per l'economia italiana nel 2015. E poi a Roma il registro delle unioni civili, finalmente parità. Festa in Campidoglio, esulta Marino. E per la partita Coppa Italia Juventus Parma, avete sentito, per il momento viaggiano sullo 0-0. E adesso concentriamoci naturalmente sulla protagonista della politica italiana, che è la partita del Quirinale. Possiamo ben dire partita, perché prosegue per molti versi a carte coperte, qualcuno le sta scoprendo nelle ultime ore. Proseguono quindi le consultazioni da parte del Presidente del Consiglio. Oggi ha visto Berlusconi, che però ha detto che un nome ancora non c'è. Tutte queste consultazioni continuano in cerca di un nome condiviso, o perlomeno che alla quarta votazione, che dovrebbe esserci sabato, perché domani iniziano le prime votazioni, possa raggiungere la maggioranza assoluta. Berlusconi ha detto, oltre a dire che ancora un nome non c'è, ha detto: Renzi ha accettato i nostri no, quindi pericoli scampati. Il pericolo scampato sembrerebbe Mattarella, perché Berlusconi non ne vuole sapere di questo, più volte ministro della Repubblica, giudice costituzionale e ex della Democrazia Cristiana, poi è entrato nell'Ulivo, e dice anche Berlusconi no a una figura radicata nel partito di sinistra. Quindi sembrava che invece Alfano fosse favorevole nei giorni scorsi, nel nuovo centrodestra e comunque in buoni rapporti adesso con Berlusconi, avesse detto: ci sembra arrogante dire di no a uno del PD. Staremo a vedere. Intanto ci sono anche gli ex del Movimento 5 Stelle, di cui si è parlato in questi giorni, ne avevamo parlato anche con Luigi Di Maio, qui a Effetto Notte, che dicono: siamo 25, non vogliamo veti su Mattarella. Abbiamo detto a Renzi no ad Amato, però su Mattarella stiamo a vedere. Civati nel frattempo sapete che è l'unico della minoranza PD che si è distinto, nel senso di fare un nome. Lui dice: se vincesse Prodi io sarei il più felice del mondo. Lo stesso Vendola, che continua a sostenere Prodi, ma dice: aspettiamo un nome degno da Renzi. E tra l'altro dice anche Vendola: Bersani potrebbe essere una grande figura della sinistra, una persona limpida, per ora mi sto stancando di stare dietro illazioni e ipotesi. Effettivamente stiamo cercando di capire dove si vuole andare a parare. Che cosa fa intanto il Movimento 5 Stelle? Aveva chiesto più volte nei giorni scorsi a Renzi di fare dei nomi, fateci dei nomi che poi noi li sottoponiamo ai nostri iscritti in rete. Non sono stati fatti questi nomi da Renzi, sempre c'è questa cortina fumogena che impedisce di capire che cosa abbia in testa, e allora ci hanno pensato quelli dei 5 Stelle a fare una rosa, a presentare una rosa di 10 nomi. Roberto Fico, buonasera. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Roberto Fico è deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione parlamentare di vigilanza RAI. Li vuole ricordare lei i nomi, li ricordo io, come preferisce? Come vuole. Le dico in ordine alfabetico: sono Pierluigi Bersani, Raffaele Cantone, Nino Di Matteo, Ferdinando Imposimato, Elio Lannutti, Paolo Maddalena, Romano Prodi, Salvatore Settis e Gustavo Zagrebeschi. Diciamo, questi sono i nomi. Uno di questi nomi, che era Lorenza Carlassare, si è ritirata. Costituzionalista, da rosa, sì. Giurista, l'unica donna. Non avete qualche altro nome di donna, Fico? Proprio una sola degna di essere la vostra rosa? Ma in questo momento le donne sono sempre degne di essere in una rosa, ma questi sono stati i nomi votati e così è andata. Per esempio, invece le regionali, cambio un attimo argomento velocissimo per fare una finestra, abbiamo oggi finito le operazioni per le candidature alle regionali, più del 50% delle regioni dove noi ci candidiamo sono le candidate presidente sono donne. Anche Lannutti, no? Mi sembra che si sia ex dell'Italia dei Valori e attuale presidente di Abusdef, si è ritirato, mi sembra, detto grazie per la fiducia ma i giochi sono già fatti, come se fosse disilluso. Però è chiaro che c'è una disillusione, le ha detto bene all'inizio del suo intervento, introduceva tutta la partita del Quirinale, si sta giocando a carte coperte e questo è il grande problema della Repubblica. A me non sembra normale, non voglio assolutamente abituarmi al fatto che ci siano trattative segrete, ci siano patti, in questo caso il patto del Nazareno, che ci si manda messaggi, email, telefonate, in una forma così oscura e poco trasparente all'interno della quale tutti i cittadini italiani sono esclusi. Eppure i cittadini italiani sono coloro che pagano lo stipendio a questo Parlamento, e grazie ai cittadini italiani che esiste questo Parlamento. E quindi si tratta in modo puramente autoreferenziale per coprire e mediare solamente interessi di parte e non collettivi, e questo è il grande problema in generale della politica italiana, e il Presidente della Repubblica in questo caso è la massima espressione di questo problema. Fico, voi ritornate sul nome di Prodi? In realtà raccontiamo la storia bene, se no così non si capisce. Noi abbiamo fatto un'apertura al Partito Democratico, che in questo momento è il partito di maggioranza in Parlamento grazie solo esclusivamente al Porcellum, che poi è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, però abbiamo fatto un appello al Partito Democratico, in realtà primo al segretario del Partito Democratico, a Renzi, e abbiamo detto: facci una rosa di 4 nomi in modo che in trasparenza massima noi possiamo consultare tutta la nostra rete del Movimento 5 Stelle, quando dico rete intendo la casalinga, il professionista, il disoccupato, il pensionato, lo studente, quindi una rete che ha un'identità digitale e che vota. Ma il Presidente del Consiglio è stato zitto e ha preferito continuare a fare trattative segrete con Berlusconi. Allora abbiamo detto: tu Partito Democratico, dacci dei nomi. Tutto il Partito Democratico silente. E allora abbiamo mandato, 2 giorni fa se non sbaglio, una mail a tutti i parlamentari del Partito Democratico dicendo: indicateci un nome e noi lo metteremo in votazione sul nostro blog nazionale. Ci hanno risposto in 4 alla fine parlamentari del Partito Democratico, e che nome hanno fatto? hanno fatto il nome di Prodi. Ed ecco perché oggi, per rispettare e onorare sempre la nostra parola, perché in politica la coerenza secondo me è il valore massimo, perché siamo abituati in un paese dove il giorno prima si dice una cosa e il giorno dopo se ne fa un'altra, e questo atteggiamento deve definitivamente finire, rispettando questa parola data in una lettera scritta al Partito Democratico, ai deputati e senatori del Partito Democratico, abbiamo inserito anche il nome di Prodi, che appunto si trova in questa rosa. Civati, Pippo Civati della minoranza PD dice: ma Prodi piace veramente al Movimento 5 Stelle, voglio capire se è un gioco. Questo è l'altro grande problema, un problema culturale, ovvero noi quello che diciamo, quello siamo e quello facciamo. Abbiamo fatto un percorso trasparente, abbiamo prima chiesto a Renzi, poi al Partito Democratico, poi ai deputati e senatori del Movimento. A questo punto non ci è arrivato alla fine poco e niente dal Partito Democratico, che non ha voluto dialogare, e abbiamo avuto solo il nome di Prodi, che per rispettare la parola l'abbiamo messo nella rosa. Questa mattina abbiamo fatto una riunione congiunta del gruppo parlamentare, e in modo in streaming, quindi tutti hanno potuto vedere, anzi ci scrivevano anche molti, abbiamo proposto e motivato dei nomi che ogni parlamentare del movimento voleva fare. Poi questi nomi sono stati votati, e i più preferiti sono stati questi 9 più uno che è Prodi 10. In questo modo è nata la rosa. E domani alle 9 di mattina sarà messa in votazione sul blog dalle 9 alle 14. Quindi si vota dalle 9 alle 14, Fico, non c'è niente di gioco che Civati o chiunque altro dica: ma vi piace veramente, è un gioco, è un bluff. Però è uno strumento di partecipazione, democrazia e trasparenza. Però onorevole Fico, adesso io le faccio sentire una cosa che le ricordo di uno dei vostri candidati della rosa, che allora però non vi piaceva per niente, così sembrava. Il messaggio che riceviamo quasi unanime dai nostri elettori è quello di non dare una fiducia in bianco. Però veramente non ce la sentiamo di poter fidarci, ecco, questa è la cosa. Diciamo che siamo in una fase in cui forse vogliamo le prove. Qui non è ballerò, qua è una roba seria. Però vedi, questi ragionamenti che io posso vedere, partono, vedo, prima da un presupposto. Sarà, stai parlando al futuro, faremo, ma perché presupponete che qualcuno ci pensi però? Perché sennò non c'è tutto questo, cioè, sia chiaro. Presupponete che c'è qualcuno che ci pensa, e poi noi faremo questo e quell'altro. Ci siamo anche proposti per essere quel qualcuno. Benissimo, se questa è la soluzione, di dire governate voi, non lo so, con l'appoggio esterno, è una proposta, ne discutiamo col capo dello Stato. Mi permetta, onorevole Bersani, mi sembra questa, è un pochino da ballerò, però lasciatemelo dire. Però insomma, se mi permettete, delle tre forze politiche che in questo momento hanno una grossa rappresentatività del paese, ritorniamo sempre lì, diciamo, due forze in questi 20 anni hanno messo in campo discorsi che poi hanno trovato poca attuazione da una parte e dall'altra, quindi ci permettiamo di far notare questa differenza al momento. Va bene, insomma, rassegnato Bersani, poi se ne andò. Onorevole Fico, questo era lo streaming nel 2013, quando Bersani, avendo vinto non di grande margine, insomma, le elezioni, cercava di fare un governo, non voleva farlo con Berlusconi, aveva provato con voi del Movimento 5 Stelle. Questo era il famoso streaming con gli allora portavoce del Movimento 5 Stelle, Vito Crimi e Roberta Lombardi. Avete cambiato idea su Bersani, visto che fa parte della vostra rosa? È il nome più sorprendente, forse, Fico? È il nome più sorprendente senza dubbio, però è in una rosa di 10 nomi. Domani noi alle 14 avremo il nostro candidato presidente, vedremo chi sarà e andremo avanti su quel nome dalle 15 con la prima votazione, il Parlamento riunito in seduta comune. Tutto qui. La deputata Biancofiore di Forza Italia ha un po' minacciato Renzi, ha detto: Renzi, basta coi voti, coi segreti, coi ricatti, sia coerente o potremmo votare Bersani. Ma Bersani diventa quindi lo spauracchio per impaurire Renzi o cosa, da una parte e dall'altra, Fico? No, ma la Biancofiore che parla di segreti, di ricatti e così via, è incoerente, perché c'è il suo capo di partito che tratta in forma segreta con Renzi, non solo sul Presidente della Repubblica, ma sulla legge elettorale, sulle riforme costituzionali, e quindi tutto è segreto e tutto si regge su un patto, che è il patto del Nazareno. Ma poi la cosa incredibile, che a me fa vergognare, è che noi trattiamo in forma segreta riforme costituzionali, legge elettorale e Presidente della Repubblica con una persona che è condannata in via definitiva per frode fiscale e che può stare a Roma dal martedì al giovedì, e il giovedì entro le 23 deve ritornare ad Arcore. E nel suo partito uno dei fondatori è Marcello Dell'Utri, che è condannato in via definitiva per associazione mafiosa, ovvero garantiva soldi a Cosa Nostra e protezione a Silvio Berlusconi. Fico, no, è chiarissimo, chiedo il suo parere. No, dico, ma allora è assurdo che noi trattiamo anche in forma segreta con queste persone in patti dove i cittadini sono totalmente estromessi. No, ma se voglio permette, io mi indigno, mi vergogno di un paese dove succede questo. Io parlerei prima di questo e poi del Presidente della Repubblica. Allora, sinceramente, io sono anche orgoglioso, per esempio, che sull'ADN Cronos qualche ora fa Di Matteo, che è un magistrato che lotta contro la mafia, che sta analizzando la trattativa Stato-mafia e che è scortato perché è a rischio di morte, minacciato da Messina Denaro e così via, si renda disponibile e orgoglioso di far parte della candidatura del Movimento 5 Stelle. E questo ci fa piacere. Fico, però mi dica se avete cambiato idea su Bersani. Serve per intimorire Renzi, dire guarda che adesso ti facciamo vedere quello che hai battuto nelle primarie, adesso risalta fuori dal cilindro. Non è questa la mossa? Non c'è nessun cambio di idea su Bersani, le assicuro, perché magari qualche persona che anche all'epoca poteva al massimo votare per fare un minimo di percorso con Bersani, magari l'ha fatto anche in questa riunione chiara in diretta streaming, e quindi Bersani è passato nella rosa. Però poi dobbiamo vedere in realtà il gradimento che Bersani avrà domani. Lei chi gradisce? Che è la risposta. Fico, chi gradisce? Ce lo dice in trasparenza? Sì, non glielo dico, ma non perché non è trasparente, ma per non influenzare il voto, che in questo momento è più importante. La trasparenza è il modo in cui si arriva ad una lista e come viene pubblicata il procedimento. Poi il mio voto lo dirò al massimo domani alle 2. In questo momento influenzerà il voto e non serve. Ci riaggiorniamo allora. Grazie, sì. Onorevole Fico. No, grazie a voi e grazie per l'invito e buonanotte. Grazie, buona continuazione, buone votazioni. Noi dobbiamo assolutamente prenderci una pausa. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano con voi, vedo diversi messaggi favorevoli a Bersani, ci sono varie persone che sono entusiasmate, ascoltatori e ascoltatrici all'idea di Bersani, però un altro scrive: spiegatemi, il Movimento 5 Stelle contro l'euro e candida Prodi, punto interrogativo. Non ne sta parlando più tanto dell'euro ultimamente il Movimento 5 Stelle. Comunque vedremo domani cosa succede con le votazioni. Intanto vi ricordo quali sono le notizie principali e tra poco affronteremo un'altra di queste, dei temi in primo piano. La corsa verso il Quirinale, dopo l'incontro con Renzi, Berlusconi dice che il nome ancora non c'è, intanto i 5 Stelle presentano la loro rosa di candidati. Grecia, Tsipras apre l'Unione Europea ma blocca le privatizzazioni, non vado alla rottura sul debito, Berlino ripete il no al taglio per l'appunto del debito. ISIS, la Giordania smentisce il rilascio della terrorista irachena e giallo sullo scambio dei prigionieri. Emilia, operazione contro l'andrangheta, anche qui si rideva per il terremoto, oltre 150 gli arresti. Omicidio Musi, ergastolo a Furchi, lui grida sono innocente. Unioni Civili a Roma, via libera al registro per le coppie di fatto, festa in Campidoglio, esulta Marino, critiche dalle opposizioni. E per il calcio, Parma-Juventus sempre 0-0. Parliamo adesso della Grecia. Dopo la vittoria elettorale, il neo primo ministro Alexis Tsipras ha riunito il primo consiglio dei ministri. Stop alle privatizzazioni, queste le prime mosse, privatizzazioni di porti e di energia. Nessuna volontà, dice Tsipras, di rompere con l'Unione Europea. Smentiremo le Cassandre, pronti a negoziare una soluzione giusta e duratura sul debito, ma avanti con il nostro programma. E quindi sì alla rinegoziazione del debito senza rotture. Stop però, dicevamo, alle privatizzazioni, sia del porto, del riempire gli occhi della società che gestisce la rete elettrica. Il nostro ha sottolineato ancora: Tsipras è un governo di salvezza nazionale, quindi deve porre fine al clientelismo politico, alla corruzione, applicare le riforme che non si sono potute fare per 40 anni e lo fa quindi con una squadra di governo nuova. Fra questi c'è Yanis Varoufakis, che è il nuovo ministro delle finanze greco, che è un personaggio particolare, definito un marxista libertario. Pensate, allora coinvolgo Teodoro Andreadis Singellakis. Buonasera Teodoro. Buonasera, buonasera a voi. Corrispondente dall'Italia da più di 20 anni per la radio televisione greca Alfa. Teodoro, quindi è una squadra nuova, Tsipras ha 40 anni, a parte la gioventù che è tanto sbandierata anche in Italia, che sembra già di per sé un elemento di innovativo, insomma, ma che squadra è quella di Tsipras? Ma è una squadra che è concentrata su un principale obiettivo. L'obiettivo è arrivare alla rinegoziazione del debito, uscire dall'austerità, ridare i servizi essenziali come la sanità, come il diritto alle medicine, come il diritto a poter prendere i mezzi di trasporto gratis o con pochi soldi per chi non ha lavoro, e soprattutto trovare e creare il lavoro, perché in Grecia la disoccupazione è ufficialmente al 26%, secondo Syriza, il partito di Tsipras, quasi al 30%. Quindi ricreare un tessuto economico, la sfida è grande, e creare una nuova politica dell'Europa, un nuovo paradigma, cioè nel senso una politica sociale che non coinvolga solo la Grecia, perché da sola ovviamente non lo può fare, ma tutta, soprattutto l'Europa mediterranea, e Tsipras spera di poter trascinare sul suo carro anche la Francia di François Hollande e l'Italia di Matteo Renzi, aspettando la vittoria probabile di Podemos, molto probabile a novembre nelle elezioni spagnole. Teodoro, tu hai scritto il libro Alexis Tsipras alla mia sinistra, in un colloquio che ho avuto con lui, no? Che uomo ti è sembrato? Sì, ci terrei con la prefazione, ti prego di permettermi di sottolineare, di Stefano Rodotà, sì, che tra l'altro ha una grande comunanza con Alexis Tsipras nelle idee. Che uomo mi è sembrato? Un uomo realista, pragmatico, un uomo che sa che in questo momento la priorità, come mi ha detto, non è il socialismo ma è uscire dalla crisi, ma che pensa che la sinistra debba, anche in Italia, puntare alla governabilità e non all'eterna opposizione e all'eterna frammentazione, soprattutto ha detto lui, e che poi pensa che l'Europa debba essere ridefinita anche tornando indietro per andare avanti in qualche modo, cioè tornando ai valori di solidarietà e di preminenza della persona umana rispetto ai soldi, che sono stati quelli che hanno creato l'Europa subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Cosa ne pensi, Teodoro, del fatto che dopo la sua elezione, la sua vittoria, gran parte di quelli che avevano guardato con certa ostilità o timore alla sua possibile vittoria poi l'hanno, non dico esultato, insomma, ma l'hanno accolto come un buon risultato? Ma molto sinceramente penso che sia un pochino la prova che poi purtroppo, insomma, secondo me purtroppo, sono sincero, c'è un primato troppo forte, un primato ingiustificato dell'economia sulla politica, e che quindi la politica non riesce più a mettere regole, e l'economia riesce a creare paure e suggestioni in molti casi, perché in Grecia si sentiva dire fino a pochi giorni fa che con la vittoria di Syriza sarebbero bloccati i bancomat, ci sarebbe stata la fuga di capitali, si sarebbe usciti dall'euro anche entro pochi giorni. Ecco, insomma, mi sembra che tutto questo al momento non sia successo, e quindi che probabilmente si può ridiscutere l'Europa e pensare tutti insieme, come tra l'altro ha lanciato dei messaggi molto interessanti anche l'Italia con il ministro Padoan, tutti insieme riuscire ad arrivare a una soluzione condivisa che forse potrebbe far bene anche agli altri paesi del Mediterraneo, più che forse, io credo quasi certamente. D'altronde anche Paolo Gentiloni, il ministro degli esteri, ha detto: se gestita politicamente, la vittoria di Tsipras aiuta anche l'Italia nelle richieste che ha portato sinora per una più forte flessibilità. Quindi potrebbe essere la testa d'ariete, diciamo. Sì, sicuramente sì. Poi certo sappiamo tutti che nelle trattative sono delle trattative se in qualche modo ci si viene incontro, se no sono dei monologhi. Io penso che Tsipras, che nel libro La mia sinistra mi ha detto: io non andrò alle trattative, agli incontri con una cintura esplosiva, ma andrò per ascoltare, per rispondere. Io penso che Tsipras lo sappia, anche Yanis Varoufakis, ministro delle finanze di cui hai parlato, lo sappia, e che abbiano già pronti dei dossier. Lo vedremo già da domani con l'incontro con Martin Schulz, e dopo domani domani con l'incontro con il capo dell'Eurogruppo ad Atene. Siamo tutti in ansia per questi incontri e capire poi quali saranno i riscontri, i risultati. Intanto vediamo come procede Tsipras. Grazie Teodoro. Grazie, grazie a voi, buona serata, Kalinista anche in greco. Buona continuazione, Kalispera se ricordo bene. E ci fermiamo qui perché vanno aggiornati naturalmente le ascoltatrici e gli ascoltatori che stanno viaggiando. Vedo ancora vostri messaggi, molti altri. La Carla Sarre dice Maria Rosaria si è tirata fuori, dice che c'è bisogno di uno che se ne intenda di politica. Cristiano, giuristi per tre quarti nella griglia dei 5 Stelle, dei 5 Stelle cadeti, dice voterei Zagrebelsky ad occhi bendati se non avesse priorità, se non avesse priorità e non scherzo, non so bene che cosa intenda, su quali priorità. Molti altri messaggi. Emilio voterebbe Raffaele Cantone della Rosa dei 5 Stelle, però sentiamo che notizie ci sono per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Enrico sulla pagina Facebook di Effetto Notte scrive proprio della rosa di candidati del 5 Stelle, Prodi, voterei Prodi ma ci sarebbero quella di prima, invece Emilio dice che voterebbe Raffaele Cantone e poi Gianfranco che dice sono un italo-sardo imposimato il mio presidente ma Bersani potrebbe andare bene, uno dei pochissimi onesti rimasti. Andiamo alle notizie. Europa 24 notte. Notizie dall'Europa, il vertice dell'Unione Europea sulla crisi in Ucraina. Si riuniscono a Bruxelles i ministri degli esteri dei 28 stati dell'Unione Europea per valutare gli sviluppi della situazione nell'est del paese e decidere l'eventuale inasprimento delle sanzioni già attive nei confronti della Russia. Nell'est dell'Ucraina vive una nuova settimana di combattimenti. A Mariupol, il porto del Mar Nero controllato da Kiev, sulla via tra Russia e Crimea, è salito a 31 morti e 108 feriti il bilancio delle vittime dei missili che si sono abbattuti sulla città sabato scorso. Mentre più a nord sono i separatisti a denunciare 16 civili uccisi dai bombardamenti che hanno colpito la regione di Lugansk nelle ultime 24 ore. Dal villaggio di Svitlodarsk, nella regione di Donetsk, controllata dalle forze lealiste, c'è invece la denuncia di un attacco all'ospedale cittadino che sarebbe stato colpito da un missile. Svitlodarsk è un villaggio di soli 10.000 abitanti nei pressi di Debaltseve, a sua volta un borgo a metà strada tra Donetsk e Lugansk, proprio all'incrocio di due strade nazionali, per questo di importanza strategica per i movimenti nella regione separatista. Domani intanto tocca all'Europa esprimersi sulla crisi usando lo strumento delle sanzioni, l'unico che ha dimostrato di impensierire Mosca. Gli Stati Uniti sarebbero pronti a imporre nuovi vincoli, mentre l'Europa, dei 28, deve mediare al suo interno per trovare una posizione comune. Secondo fonti diplomatiche, i ministri degli esteri UE sarebbero orientati ad aggiungere altri nomi alla blacklist, quella degli individui sotto sanzione a causa della crisi, senza però ampliare lo spettro delle sanzioni stesse. Le misure prese contro singoli individui, comprese personalità del cosiddetto cerchio magico del Cremlino, hanno costituito la prima fase delle misure varate dall'UE dopo l'annessione della Crimea. Le sanzioni settoriali, invece quelle mirate a settori dell'economia russa, sono arrivate dopo l'abbattimento dell'aereo della Malaysia Airlines nei cieli sopra l'est dell'Ucraina nel mese di luglio. Si lavora anche sul messaggio che seguirà la riunione, le decisioni di Bruxelles e sulla nuova linea di attrito che si è aperta con Atene. Con una nota formale rivolta a Bruxelles, Alexis Tsipras, che ha avuto una conversazione con Federica Mogherini, ha espresso un'obiezione formale al comunicato UE, nel quale si parla di responsabilità di Mosca nel deterioramento della situazione in Ucraina. Atene, insomma, prende le distanze. D'altra parte, il nuovo ministro degli esteri, Kotsias, ha detto più volte di essere favorevole a rapporti più stretti con Mosca, una posizione che di fatto condivide con l'Ungheria di Orban, che attende Putin il 16 febbraio a Budapest per quella che sarà la prima visita ufficiale del presidente russo in un paese UE dall'inizio della crisi. A Mosca intanto è stato presentato il piano anticrisi. Il Cremlino ha deciso di spendere 35 miliardi di dollari per risollevare l'economia russa, colpita dalle sanzioni ma soprattutto dal crollo del prezzo del petrolio. Il presidente russo ha poi chiesto alla Corte dei Conti di controllare attentamente l'attuazione del piano, spiegando che la Russia oggi non si può permettere nessuno spreco di denaro, quasi un avvertimento sul fatto che il braccio di ferro tra Mosca e l'Occidente sull'Ucraina è destinato a durare ancora a lungo. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Europa 24 notte. in collaborazione con Euronet Plus. E parliamo adesso di una nuova legge della Regione Lombardia che sicuramente farà discutere e già sta facendo discutere non solo le opposizioni ma anche in parte l'opinione pubblica. Comunque vi dico di cosa si tratta. La Lombardia ha adottato una legge regionale per limitare tramite delle regole urbanistiche che sono più severe, più dettagliate, più onerose l'autorizzazione di nuovi luoghi di culto. Questa limitazione nell'autorizzazione di nuovi luoghi di culto vale per tutte le confessioni, ma il provvedimento è stato voluto dalla Lega e sostenuto dal centrodestra in Regione Lombardia. Soprattutto sembra un segnale politico alle associazioni islamiche che chiedono da tempo di regolarizzare l'apertura di moschee, trovando sponda nel diciamo, atteggiamento favorevole di amministrazioni di centrosinistra a partire dal comune di Milano. E su questo aspetto si è incentrato tutto il dibattito in aula, dove le opposizioni, cioè il PD, Movimento 5 Stelle e Patto Civico, hanno ribadito in Regione Lombardia, votando contro, la convinzione che la legge sarà dichiarata incostituzionale rispetto al diritto alla libertà di culto. E su questo vorrei sentire il parere del professor Paolo Branca. Buonasera professore. Buonasera a voi. Che è docente di lingua e letteratura araba e islamistica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. A lei sembra che questa legge possa essere imparziale, possa essere costituzionale, così come invece pensa, al contrario di come pensano le opposizioni nella Regione Lombardia? Cosa ne pensa, insomma, dell'approvazione di questa legge? Ci sono dei profili di incostituzionalità molto evidenti in alcune norme che limitano la possibilità di fare luoghi di culto alle religioni che hanno un'intesa con lo Stato italiano, il che coccia ovviamente con la libertà di coscienza e di culto che invece è garantita a tutti coloro che vivono sul territorio nazionale, indipendentemente dalle intese che si possono essere stipulate con il governo o lo Stato o anche gli enti locali. Ma in più credo che veramente il segnale devastante di questa decisione è che per l'ennesima volta si è deciso di non fare nulla, cioè di bloccare tutto invece che di gestire un tema delicato sicuramente come quello dei luoghi di culto di nuove religioni che non erano presenti in Italia fino a qualche anno fa. Si decide che è meglio non decidere, il che vuol dire che gli 800 luoghi di culto islamico non autorizzati, più o meno clandestini, che sono già presenti sul territorio nazionale, li consideriamo forse più sicuri di qualche cosa di gestito un po' meglio. Ecco. Perché lei, professore, dice non è soltanto una questione di diritti civili, di libertà di culto, ma anche di sicurezza, di maggiore trasparenza se vengono regolarizzate queste moschee? Ma io credo che la democrazia sia proprio come sistema, abbia nel suo DNA il destino e il compito di promuovere le pratiche migliori. Se non lo fa non serve a niente, per fare dei piaceri agli amici è sufficiente una bella dittatura. Quindi viene meno a uno dei suoi compiti fondamentali, che è quello di capire chi c'è sul terreno, chi si muove meglio e premiare chi si... io stavo in America su invito tra l'altro del Consolato degli Stati Uniti di Milano, che mi ha aiutato moltissimo in questi anni anche con giovani musulmani di seconda generazione, per vedere che cosa sono le moschee americane, e non sono certamente né scantinati né garage, che invece andrebbero benissimo secondo una norma di questa nuova legge, perché sono consone al paesaggio lombardo. Infatti devo dire, professore, in questa legge che è già stata ribattezzata Antimoschee, impone fra le altre cose ai chiedenti di farsi carico delle spese per parcheggi, strade e impianti di videosorveglianza che sono obbligatori, e poi di rispettare il paesaggio lombardo, come diceva lei, in questi progetti, e il vaglio di una procura vassa, ai comuni poi data la facoltà di indire referendum consultivi. Però secondo lei è stato un modo anche da parte del Consiglio regionale lombardo di accogliere un'istanza diffusa dell'opinione pubblica, delle paure che magari stanno crescendo proprio in virtù di quello che è successo di recente da Parigi e non solo? Ma non c'è dubbio, l'opinione pubblica è spaventata, anche perché dai media riceve dei bollettini di guerra quotidiani, non soltanto su questo tema. Però ecco, diffondere soltanto la paura e non la prudenza, che è un'altra cosa, ci paralizza e soprattutto ci condanna a subire invece che a gestire i fenomeni. E questo è veramente il fallimento di un'intera classe politica. Grazie professor Branca. Bene, e adesso direi di alleggerirci con Dario Ricci, al quale chiedo se è mossa la partita di Coppa Italia Parma-Juventus. Dario, siamo sempre lì. Si è mosso proprio niente, cara Roberta. Siamo al 53esimo di gioco, il risultato ancora inchiodato sullo 0-0, come dicevamo nel precedente collegamento. Un battagliero Parma sta dando filo da torcere alla Juventus, Juventus che però nel finale del primo tempo ha avuto una doppia grossa occasione con un tiro cross di Pepe, di Simone Pepe, che ha incocciato il palo della porta del Parma, difesa da Mirante. Sul rimpallo il pallone è arrivato a Vidal, che dal limite dell'area ha calciato alto di pochissimo. Questa è stata la più grande occasione per la Juventus. Per il resto Parma battagliero, come dicevamo, che ogni tanto si fa avanti dalle parti di stradali, come in questo istante. Seguiamo l'azione, il cross, deviazione in calcio d'angolo per gli emiliani. 53esimo di gioco, ancora 0-0 tra Parma e Juventus. Molto bene, grazie Dario Ricci. Noi ci risentiamo tra poco.